GR24, il sole 24 ore. Giornata nera per borsa e titoli di Stato, Trichet, l'Europa vigili sui conti pubblici, Draghi senza l'euro sarebbe stato peggio. Irruzione dei centri sociali a Piazza Affari con la manovra pronta all'aula, domani lo sciopero generale della CGIL. Fermato il vandalo di Piazza Navona, ha confessato, grossi problemi, volevo aiuto. 90.000 candidati per 10.000 posti ai test di medicina, piace il camice bianco agli studenti italiani. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Giornata nera sui mercati, giornata nera per i titoli di Stato. In Europa è ancora bufera. A intervenire è stato nuovamente il presidente della Banca Centrale Europea Trichet e da pochi istanti ha cominciato a parlare anche il già designato successore Mario Draghi. Sono intervenuti da Parigi, allora però cominciamo da qui, Anna Marino. Sì, senza l'euro la crisi sarebbe stata peggiore per tutti ed essere Stati Uniti è stato un bene. L'occasione per la difesa della moneta unica per il governatore uscente della Banca d'Italia e futuro presidente della BCE Mario Draghi e l'intervento a un convegno in corso a Parigi a cui partecipa anche l'attuale numero uno dell'istituto. Anche Trichet tiene il punto e coglie al balzo l'occasione di un convegno appunto per richiamare al loro dovere i governi europei, indicando loro ancora una volta la strada contro la crisi del debito. Occorre una governance economica europea molto più incisiva e in particolare serve una maggiore capacità di sanzioni preventive per i paesi che sforano i limiti dell'indebitamento. Se un paese non riesce a prendere le decisioni adeguate, ha detto Trichet, in termini di risanamento del bilancio, allora dovrebbe essere consentito di imporle a livello centralizzato. Il presidente uscente della Banca Centrale Europea è tornato poi ad auspicare nel lungo termine l'istituzione di un ministro delle finanze europeo. Trichet ha quindi difeso il patto di stabilità europeo perché è essenziale e ha sottolineato come l'Europa ha pagato a caro prezzo la decisione di indebolirne i principi. Infine ha chiesto un'accelerazione per attuare immediatamente gli accordi presi dai capi di Stato e di governo europei al Consiglio europeo del 21 luglio scorso, che fra l'altro prevedono di assegnare al Fondo Salva Stati e non più alla BCE l'onere di acquistare titoli di Stato europei sul mercato secondario. E per ora è tutto. E grazie ad Anna Marino. Ma dicevamo, la giornata sui mercati intanto è difficile. Saluto ancora anche Deborah Rosciani. Sì, buongiorno Anna. I listini europei sono in ribasso pesantissimo in questo momento. Le preoccupazioni sono molte, sono ancora preoccupazioni legate alla possibilità che si ricada in recessione e questa preoccupazione è riemersa venerdì dopo la pubblicazione del dato americano sulla disoccupazione. L'economia stelle strisce, non ha creato alcun posto di lavoro e questo appunto ha gettato di nuovo nello sconforto gli investitori di tutto il mondo. Tornano poi ad acuirsi le tematiche legate al debito sovrano dell'Eurozona, la Grecia che continua ad essere in evidente difficoltà, pesa probabilmente anche l'incertezza politica italiana e l'incapacità al momento di mettere in piedi appunto la manovra economica. Tutto questo stamattina sta portando Parigi a perdere il 3,87%, Francoforte perde il 3,81%, Londra perde il 2,37%, Milano il 3,56% sul FTSE MIB. Sono nella bufera tutte le banche di tutto il vecchio continente, penalizzate sia dalla prospettiva della recessione ma anche dalla notizia che alcuni istituti europei risultano coinvolti nella maxi indagine americana sui prodotti subprime. Tanto per fare alcuni esempi, Société Générale a Parigi perde il 9%, BNP Paribas il 7,78%, Royal Bank of Scotland a Londra perde il 10%. Intesa San Paolo è il peggior titolo di Milano, il calo di quasi 7 punti percentuali, Unicredit meno 5. Naturalmente le tensioni si sono trasferite inevitabilmente sul mercato obbligazionario. Il differenziale di rendimento fra il BTP italiano e il Bund tedesco ha superato di nuovo i 350 punti base, arrivando a 351, e questo anche perché c'è una forte ricerca di sicurezza. Gli investitori si stanno portando sui titoli tedeschi, appunto, che hanno toccato il loro minimo storico all'1,99%. Un'ultima notizia: i credit default swap sull'Italia, i contratti derivati con cui ci si protegge dal rischio di insolvenza, sono volati al massimo storico di 422,5 punti e per ora è tutto. E grazie a Deborah Rosciani, naturalmente continueremo a monitorare la situazione nel corso della giornata. Intanto c'è stato anche un blitz questa mattina alla Borsa di Milano, blitz non finanziario, bensì una decina di militanti dei centri sociali hanno fatto irruzione a Palazzo Mezzanotte per protestare contro i provvedimenti presi dalla manovra del governo, sono riusciti a salire al secondo piano da dove hanno esposto alcune bandiere. Ma restando invece alle questioni economiche, non sono bastate insomma le molte rassicurazioni arrivate nel fine settimana settimana. Ha parlato il Presidente della Repubblica, hanno parlato diversi ministri da Cernobbio, ma le preoccupazioni restano. Anche perché la manovra, che ha ottenuto il via libera in Commissione Bilancio al Senato, contiene molte novità e altre potrebbero arrivare da domani all'esame dell'Aula. Allora andiamo a Palazzo Madama da Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Molte le conferme dal passaggio del decreto in Commissione Bilancio, ma diverse anche le novità introdotte dagli emendamenti. Da domani il testo sarà in aula, Palazzo Madama, e vedremo se i contenuti saranno confermati. Su tutto pesa l'ipotesi della fiducia, valuteremo se chiederla, ha annunciato il Ministro per lo Sviluppo Economico Romani. Contrario il Presidente del Senato Schifani, andrebbe contro, ha spiegato Schifani, lo spirito di collaborazione parlamentare dimostrato in questi giorni. Quanto ai contenuti della manovra, ricordiamo la contestata modifica all'articolo 8 sul lavoro e sui licenziamenti, la nascita del Super IMS, la spending review, le dichiarazioni online, il passo indietro del governo sul contributo di solidarietà e sulle pensioni, salve invece le feste laiche e l'accelerazione quindi dell'esecutivo contro gli evasori fiscali. Sul piede di guerra restano però gli enti locali. Spiega il perché il presidente della Lombardia Formigoni, intervenuto ai microfoni di Radio 24. Sentiamo. Noi siamo pronti, noi presidenti di regione, noi sindaci, a fare la nostra parte, ma la nostra parte non ci può essere caricata una parte eccessiva. Le spiego, il complesso di queste tre manovre, perché devono essere viste insieme dal luglio dell'anno scorso all'agosto di quest'anno, tre manovre, taglia 107 miliardi di spesa pubblica. Ma di questi 107 miliardi, ben 58 miliardi sono tagliati alle regioni, cioè alle regioni sono attribuiti il 54% dei tagli, quando le regioni pesano nel comparto della spesa pubblica soltanto per il 20%, comprendendo la sanità. Senta, ma secondo lei si deve ancora cambiare, si può cambiare la manovra a questo punto? Ma certamente sì, altrimenti vengono impediti alcuni servizi essenziali, dal trasporto pubblico locale. Quando lei taglia i trasferimenti alle regioni del 77% sul trasporto pubblico locale, praticamente impedisce alle regioni di garantire i treni per i pendolari, di garantire i bus per chi deve spostarsi da una città all'altra. Cioè vengono tagliati i servizi essenziali, non è che viene tagliata la casta dei presidenti di regione e dei sindaci, vengono tagliate quelle cifre lì. Queste dunque le parole di Formigoni, e alle 15 gli enti locali manifesteranno davanti alla Camera dei Deputati. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. C'è un aggiornamento nel frattempo da Bruxelles, perché la Commissione europea valuterà il pacchetto fiscale italiano una volta che sarà definitivo e approvato, non prima. Lo ha detto poco fa il portavoce del commissario per gli affari economici e monetari Olli Rehn. Non intendiamo, aggiunto, interferire nel dibattito parlamentare che è in corso in Italia. E domani ci sarà anche lo sciopero generale della CGIL, con quali modalità? Sentiamo. Oltre 100 cortei in tutta Italia e 8 ore di astensione dal lavoro. La CGIL fa sentire così la sua voce contro la manovra del governo, un provvedimento che il leader del sindacato Susanna Camusso definisce profondamente iniquo, perché a suo dire scarica tutto sul lavoro pubblico, sui pensionati, sui servizi ai cittadini, una manovra socialmente insopportabile. E così domani i lavoratori di tutte le categorie incroceranno le braccia, a partire dai trasporti, dove aderiscono anche i sindacati di base, stop degli aerei dalle 10 alle 18 e dei treni, dei traghetti dalle 9 alle 17, mentre per quanto riguarda il trasporto pubblico locale sarà nel rispetto delle fasce garantite secondo le modalità previste città per città. Disagi anche nel campo della sanità, dove si fermeranno medici e veterinari nelle poste, nella scuola e nel pubblico impiego. Un martedì nero soprattutto per la capitale, dove sfileranno due cortei, uno dei sindacati di base e l'altro della CGIL, con comizio finale di Susanna Camusso. Uno sciopero che ha provocato polemiche e divisioni, appoggiato dall'opposizione Italia dei Valori e SEL, non vede la partecipazione di CISL e UIL. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E voltiamo pagina, parliamo ora di quanto sta accadendo in Liguria. Frane e allagamenti nella notte nel Levante genovese a causa di un violento nubifragio. Portofino isolata, ma ci sono anche altre zone dove sono stati molti gli allagamenti. Sentiamo Andrea Ferro. Sì, buongiorno Anna. In Liguria temporali e pioggia battente hanno spezzato la morsa del grande caldo. Un autentico nubifragio si è abbattuto nella notte lungo la riviera di Levante, come dicevate da studio. Allagamenti e soprattutto frane. Una in particolare è caduta sulla strada che collega Santa Margherita con Portofino. Il celebre borgo è isolato dall'alba. Ora si lavora per rimuovere i massi che ostruiscono la sede stradale. Svuotamenti anche sulla Aurelia, la ruta di Camoglie tra Rapallo e Chiavari, dove il traffico traffico procede a singhiozzo. A Chiavari danni a negozi e scantinati. L'ondata di maltempo ha imperversato anche nel Savonese, esondati alcuni torrenti, viabilità in tilt su varie strade provinciali. In Val Bormida è rimasto chiuso per 4 ore il colle di Cadimona. Mentre vi parlo, la situazione meteo è in netto miglioramento. Sin dalle prossime ore è atteso il ritorno del sole. E per il momento è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Andrea Ferro. Intanto noi invece andiamo a Roma, dove è stato arrestato il vandalo di Piazza Navona. È un romano di 52 anni, il vandalo delle fontane. Riconosciuto dalla corporatura e dalle scarpe che indossava nei filmati delle telecamere, l'uomo ha ammesso di aver danneggiato sia la fontana del Moro che quella di Trevi, perché voleva attirare l'attenzione a causa di problemi personali. Al momento dell'arresto è apparso piuttosto instabile, a tratti poco presente, ed è stato sottoposto a TSO, ovvero al trattamento sanitario obbligatorio in ospedale. Molto positivo il commento del sindaco Alemanno. Un plauso ai carabinieri per averlo individuato e fermato, ma ora una punizione esemplare e nessuna clemenza. Intanto è iniziato stamani il restauro della fontana del Moro, che dovrebbe essere completato entro 15 giorni. La stima dei danni è di circa 10.000 euro, una spesa che graverà sulle tasche dei contribuenti. Stretta sui controlli, infine. Almeno 1.200 telecamere sono puntate su monumenti e piazze importanti della capitale e già si annunciano altri 60 occhi elettronici al Colosseo per controllare i movimenti insoliti di coloro che si avvicinano ai monumenti. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E andiamo al Festival del Cinema di Venezia, dove oggi è protagonista Vasco Rossi. È dolce la vita della rockstar, eh? Bella vita. Sono cresciuto in mezzo alle donne, ho vissuto liberazione sessuale proprio nel momento in cui non c'era voglia di fare altro. Era arrivato il divorzio, proprio quando ci eravamo tutti sposati con le nostre compagne di classe, e poi dopo però era la rovina. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle di... Stava piovendo, non potevamo fare il concerto, comincio. Voglio una vita, cazzo, come minimo maleducata, spericolata, va a fare tutti a fanculo. Poi ho pensato, oh, questa la vado a cantare a Sanremo. Voglio una vita. Questa storia qua, il documentario su Vasco Rossi presentato oggi fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Il rocker non potrà esserci per i noti problemi di salute, in uscita nelle sale il 7 settembre. La voce di Vasco Rossi che si racconta, l'avete sentito, e poi una quindicina delle sue canzoni più amate fanno da filo conduttore a un percorso inedito tra il suo impatto con il successo e il suo periodo meno conosciuto, quello dell'infanzia e degli anni passati a Zocca, il paese del modenese dove è nato. Le 13:15 minuti, le notizie di oggi di GR24, giornata nera per borsa e titoli di Stato. Trichet, l'Europa vigili sui conti pubblici, e interviene anche Mario Draghi. Senza l'euro, dice, sarebbe stato peggio. Irruzione dei centri sociali a Piazza Affari con un volantino e con la manovra pronta all'aula. Domani intanto lo sciopero generale della CGIL. Fermato il vandalo di Piazza Navona, ha confessato, un romano di 52 anni, ho grossi problemi, volevo aiuto, dice. 90.000 per i testa medicina, piace il camice bianco agli studenti italiani. E ripartiamo proprio da qui, 90.000 candidati per poco più di 10.000 posti, la lotteria dei test per i pretendenti al camice bianco. In tutti gli atenei italiani oggi le prove di ammissione alla facoltà di medicina e chirurgia, proprio in questi minuti le prove dovrebbero concludersi un po' dappertutto. E allora sentiamo da Renato Reggiani, direttore di universinet.it, come è andata, se i ragazzi l'hanno trovato difficile. L'ha intervistato poco fa Maria Piera Ceci. Sicuramente per i ragazzi, diciamo, emerge una difficoltà nella parte matematica e logica. Queste sono le due aree in cui abbiamo avuto diverse segnalazioni. Quest'anno il ministro Gelmini ha promesso invece una stretta, più controlli per evitare truffe. Secondo voi hanno funzionato, stanno funzionando? Ogni anno viene fatto questo annuncio di maggiore severità o un giro di vite per i test, il che ci fa sicuramente piacere, perché una maggiore giustizia è una garanzia per tutti. Io credo molto nel genio italico, e quindi nei prossimi giorni, come avviene ogni anno, le forze di polizia o altro portano alla luce trucchi o comunque sistemi di vicinanza o di imbroglio che, diciamo, dai controlli previsti per l'anno in corso eventualmente non sono stati rilevati. Che cosa si deve fare secondo lei? C'è un modo per evitare tutto questo? Sì, La richiesta principale è quella dell'assegnazione in maniera casuale, come già avviene in alcune sedi, ma non sempre purtroppo, dei posti a sedere. Questa potrebbe essere una soluzione che eviterebbe moltissimi reagiri, è per quella di impedire assolutamente che una persona possa iscriversi a più di un test, come sta avvenendo quest'anno con il problema del test per la laurea in medicina in inglese, che è successivo a quello dei test che si stanno svolgendo oggi, e quindi moltissime persone si sono iscritte ad entrambi i test. Voltiamo pagina col caso Tarantini. I magistrati della Procura di Napoli vorrebbero ascoltare entro 10 giorni, in qualità di persona offesa, il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Soldi tanti in contanti, più o meno 850.000 euro, che secondo la Procura di Napoli il Premier Silvio Berlusconi sarebbe stato costretto a versare a Giampaolo Tarantini, alla moglie e a Walter La Vitola. I pagamenti, ammessi in un interrogatorio dalla segretaria di Berlusconi Mariella Brambilla, sono quantificati in 20.000 euro mensili, a cominciare dall'autunno dello scorso anno, più un finanziamento di 500.000 euro. Un passaggio di mano, quello in contanti, che viola tra l'altro le norme antiriciclaggio che lo stesso governo Berlusconi ha inasprito di recente. La legge infatti vieta le transizioni in contanti per cifre superiori ai 5.000 euro. Ora il Premier dovrà spiegare come mai quelli che lui definisce aiuti alla famiglia Tarantini sono stati fatti in contanti. E dovrà farlo entro 10 giorni, almeno questo è quello che vorrebbero i magistrati di Napoli, che hanno intenzione di sentirlo come persona offesa. Sembra però che Berlusconi chiederà un rinvio per impegni improrogabili, concessi intanto i domiciliari ad Angela De Venuto, mentre sono in corso nuovi accertamenti sui finanziamenti all'Avanti e sui rapporti di Tarantini con Finmeccanica. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E si riunisce oggi la commissione del Partito Democratico invece per discutere del caso Penati. Si profila una sospensione dal partito per Filippo Penati. Oggi pomeriggio il caso dell'ex presidente della provincia di Milano sarà sul tavolo della commissione di garanzia del PD. L'ex capo della segreteria di Bersani, coinvolto nell'inchiesta di Monza sulle presunte tangenti per i lavori all'area Falck, si era già autosospeso dagli incarichi. Nel partito c'è chi chiede la sua espulsione, come il senatore Ignazio Marino, convinto della necessità di mandare un segnale forte all'esterno. Nello statuto del PD però l'espulsione è prevista solo per l'arresto o il rinvio a giudizio e viene giudicata una soluzione improbabile anche dal presidente della commissione Luigi Berlinguer. Più concreta invece appunto l'ipotesi di una sospensione di Penati. Quel che è certo è che quella di oggi pomeriggio non sarà una riunione tranquilla e comunque vada la decisione che verrà presa dai garanti del PD sembra destinata ad alimentare nuove polemiche interne. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. È partita intanto la raccolta di firme per il referendum per la riforma elettorale con l'abolizione del porcellum e il ritorno al cosiddetto Mattarellum. Al microfono di Francesco Marinelli, il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro. Noi vogliamo arrivare nel nostro in tutti insieme, l'impegno nostro non è di fare, io ne ho messe tante, ma tutti insieme vogliamo fare almeno 501.000 firme, quindi non esiste quando ne ha fatto l'uno e quando ne ha fatto l'altro. Quel che a me interessa molto in questo momento è che tutti coloro che sono andati a firmare e che con la loro firma danno visibilità a questo referendum facciano uno sforzo in più, oltre alla loro di firma ci mettono anche la loro di faccia dietro al banchetto, perché abbiamo bisogno dell'altre 499.999 oltre alla loro. C'è l'accordo tra Italia e Francia per la divisione dei costi della Torino a Lione. Dopo settimane di riunioni, calcoli e vertici sul tavolo dei due governi, a giorni dovrebbe arrivare l'intesa. Tra 10 giorni, il 13 settembre, la riunione tecnica. Il 16, ma la data è ancora da confermare, a Parigi il vertice politico che dovrà varare il nuovo trattato e sostituire quello del 2001. L'intesa dovrebbe prevedere per l'Italia il pagamento del 60% dell'opera. Il governo puntava a un riequilibrio più netto, ma hanno inciso i ritardi nell'avvio dei lavori. Siamo alla cronaca. Sono in gravi condizioni 4 operai tutti italiani rimasti intossicati mentre stavano eseguendo dei lavori di manutenzione in un centro sportivo a Lavinio in provincia di Roma. Erano in stato di incoscienza a seguito dell'intossicazione, probabilmente a causa di esalazioni di anidride solforosa. Secondo le prime ricostruzioni, 4 operai dipendenti di una ditta esterna erano nel locale motori nei sotterranei del centro sportivo per eseguire dei lavori di manutenzione agli impianti della piscina. Il comune di Parma è nella bufera dopo lo scioglimento della giunta e si attende il rimpasto, ma i cittadini chiedono le dimissioni del sindaco Pietro Vignali e il commissario dell'ente. Dopo mesi di proteste, questa sera ci sarà un nuovo consiglio comunale, si annunciano di nuove. Allora Barbara D'Amico ha sentito Marco Vignozzi del Movimento 5 Stelle di Parma. Noi vogliamo il commissariamento, si deve dimettere il sindaco e il comune deve essere commissariato. E il problema fondamentale del comune di Parma sono i conti del comune. Questa giunta ha sempre dimostrato poca trasparenza nei conti, solo un commissario, che è terzo, riuscirebbe a far emergere veramente qual è la situazione finanziaria del comune di Parma. Devono sistemare appunto quelle opere che hanno iniziato senza i soldi e stanno cercando di reperire le risorse. Cioè, uno dei nodi fondamentali sono i 70 milioni di euro che devono arrivare dal governo, perché se arriva il commissario prefettizio quei soldi li lascia nel cassetto, perché non si può impegnare in cose straordinarie. Mentre loro si tengono ancora il potere della città per poter gestire quei soldi. Quella è la macro area. Poi ci sono anche altri interessi. Rapida ma normata questa mattina ad un furgone portavalori sul raccordo Siena-Firenze tra Colle Valdelsa, Sud e Monte Rigioni. Il bottino sarebbe tra i 400 e i 500 mila euro. I rapinatori hanno usato un camion per chiudere la strada davanti al furgone e delle auto cui hanno dato fuoco per impedire che da dietro arrivassero altre vetture. Hanno sparato al furgone portavalori e lo hanno tamponato per costringerlo a fermarsi. Avete sentito poco fa dai nostri aggiornamenti, nella zona ci sono ancora code. Le 13:23 minuti 30 secondi, siamo alla pagina sportiva e forse alla vigilia della partenza del campionato di calcio, almeno dal punto di vista burocratico e dei contratti. Tutto risolto questa mattina, lo chiedo a Dario Ceccarelli. Sì, ciao Anna, buongiorno agli ascoltatori. Sì, dovremmo essere proprio alla fase finale dopo un anno di trattative, di litigi, di scioperi, come è successo appunto la settimana scorsa. Il cosiddetto happy end sta arrivando. Lega e Associazione Calciatori firmeranno tra poco, penso, il nuovo contratto collettivo valido fino al 30 giugno 2012. Si tratta in sostanza di quell'accordo ponte che era stato proposto dal presidente dell'Associazione Calciatori, Damiano Tommasi, per rinviare in extremis il rinvio della prima giornata. Proprio stamattina Tommasi ha detto che ci sono tutti gli elementi per arrivare alla firma e che l'elemento più importante è stata la volontà della Lega Calcio di valutare la proposta dei calciatori. Ma sono intercorsi due eventi importanti: lo stralcio del contributo di solidarietà, che era la famosa supertassa che avremmo, che i cittadini che hanno tasse oltre i 90.000 euro avrebbero dovuto pagare, e i calciatori si erano molto adombrati per questa vicenda, cosa che ha fatto irritare molti italiani, perché in un momento in cui bisogna stringere la cinghia, insomma, si pensa che anche i calciatori dovrebbero fare qualche sacrificio. E poi il fatto che sia intervenuto anche il governo, che rivedrà e valuterà in una apposito tavolo istituzionale alcune norme da cambiare e varie ed eventuali. Ma quindi tra poco ci dovrebbero essere le firme con gli avvocati che vedranno se limare gli ultimi dettagli tecnici. E nel pomeriggio alle 16:30 l'apertura di tavolo con il governo. Chiuse le polemiche sui contratti, ce n'è una nuova sulla nazionale. Eh sì, qui è come le ciliegie, una tira l'altra. In nazionale si parla non tanto della qualificazione agli europei, perché vabbè, questo ormai è quasi scontato, ma si parla della nuova polemica su Mario Ballotelli. E allora aggiungiamo che la domanda che forse molti giornalisti avrebbero voluto fare questa mattina invece l'ha fatta un ragazzo del carcere di Sollicciano. Mario, è vero che sei sceso in campo con l'iPad? La domanda è arrivata da uno dei 200 detenuti radunati nella sala cinema del carcere di Sollicciano per un lungo incontro con una delegazione azzurra. Domanda naturalmente a Mario Ballotelli, e ha risposto: l'iPad l'avevo nel riscaldamento, in panchina non l'ho portato. Ecco, sì, qui si gioca un po' sulle virgole, nel senso che durante l'ultima partita nazionale Ballotelli sarebbe stato accusato di guardare l'iPad mentre i suoi compagni si scaldavano, addirittura avevano iniziato la partita. Quindi qui naturalmente la verità non si saprà mai, come non si saprà mai cosa guardava Balotelli nell'iPad, se guardava un videogioco oppure l'ultima edizione del Washington Post, non credo comunque. E riguardo tutto resta il problema che Prandelli, il CT della Nazionale, che tanto ha insistito per portare Balotelli in Nazionale, gli ha dato una specie di ultimatum: o decidi di giocare, impegnarti e anche nei comportamenti essere un professionista, oppure rischi la Nazionale. Tanto vero che l'ultima partita ha giocato 7 minuti e questa volta pare che addirittura non lo faccia giocare se non in qualche scampolo di finale di partita. Resta il problema di un giocatore che ha degli enormi mezzi tecnici e però continua a non comportarsi davvero professionista, ed è un peccato perché comunque Balotelli è una, per la nostra calcio è un elemento prezioso, è un investimento per il futuro. E questo il quadro dell'avvio della stagione di calcio. Grazie allora anche a Dario Ceccarelli. Alle 14 poi vi ricordo c'è A Tempo di Sport. Nel frattempo invece GR24 si conclude qui. Roberto Scaltritti in regia, da Anna Migliorati ancora una buona giornata. GR24 vi aspetta con gli aggiornamenti alle 14. GR24, il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.